Incontri di Gianfranco Fabi. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Con la voce inconfondibile di Lucio Dalla, a cui va il nostro ricordo, iniziamo l'incontro di oggi. Buona domenica a quanti ci ascoltano, buongiorno e buon pomeriggio a Barbara Contini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Barbara Contini, fino a poche settimane fa, senatrice della Repubblica, impegnata a lungo sul fronte internazionale, la ricordiamo come responsabile della ricostruzione della regione di Nassiriya in Iraq e in altri luoghi che vedremo, e in futuro? E in futuro, se non ci sarà niente da fare in Italia, ripartirò. L'Italia è molto bella, questa canzone di Lucio Dalla cosa le ricorda? Mi ricorda tutti gli italiani nel mondo, perché la cantavano, e non solo gli italiani. A Tokyo 30 anni fa si cantava questa canzone pensando agli italiani, e la si canta da New York a Perth a tutto il mondo. E poi mi ricorda anche un'altra cosa, che io sono una milanese che ha fatto il percorso al contrario 30 anni fa da ragazza, e quindi andai a fare l'università a Napoli per avere anche la possibilità di studiare giapponese. Quindi anche questa immagine del Golfo di Sorrento e questa emozione del te voglio bene assai è tutta italianità, infatti. È tutta italianità, è tutta una grande mondo in giro per il mondo, una grande Italia in giro per il mondo, che mi ha saputo dare tanto, e forse diciamo che senza non avrei fatto quello che ho fatto. Ecco, quindi un grande impegno nel passato, sì. Vogliamo ricordarlo a grandi linee, questo impegno. Dove è cominciato con l'impegno appunto di aiuto, di assistenza, di consulenza internazionale? È iniziato a Tokyo 35 anni fa. E mi sono poi mossa sempre, 12 anni in Asia, sono rimasta in Bangladesh con gli UNDP, e quindi ho fatto tutto il subcontinente indiano, l'India, il Pakistan e tutte le zone limitrofe, Thailandia e così via, il sud-est asiatico. E poi da lì sono rientrata in Europa e sono rientrata qui in Europa perché poi mi sposai e immaginavo di rimanere in Europa, almeno nell'ambito europeo, e invece sono andata a fare il manager nel settore aeronautico e aerospaziale, vendendo aeroplani in giro per il mondo, e quindi sono di nuovo ripartita per l'India, per la Nigeria, per il Cile. E dopodiché sono ritornata di nuovo nell'ambito della cooperazione e per altri 6 anni, e ho girato di nuovo, non sono mai rimasta ovviamente a casa, speravo di rimanere a casa ma non ci sono stata, e poi sono arrivati i Balcani, e dopo la guerra dei Balcani sono rimasta quasi 5 anni nei Balcani, e poi l'Iraq, poi il Darfur. E poi dopo tutti questi paesi, molti altri ancora, sono rientrata a casa immaginando di servire il paese. Alla ricerca di sempre maggiori problemi, forse al Senato c'erano forse più problemi che nei Balcani. Sì, direi di sì, assolutamente, anche ora. Sì. Ecco, ma guardiamo un po' questa realtà internazionale come vista l'Italia. Quali sono i paesi dove l'Italia è vista meglio e dove ha più problemi? L'Italia, soprattutto poi quando l'Italia è portatrice di pace, di ricerca, appunto, di crescita economica, probabilmente ha una buona immagine. L'Italia e gli italiani hanno una buona immagine, perché quelli che stanno all'estero, grazie a Dio, sono quelli che riescono a dare una buona immagine appunto del nostro paese. E in effetti nei grandi paesi che oggi sono, diciamo, i grandi attori della globalizzazione, sono paesi che pensano all'Europa, non pensano all'Italia. Ormai certo. L'Italia fa parte del discorso europeo e non si parla più di Italia, si parla di Europa. Se vai in Cina ti parlano di Europa se ti vedono che sei italiano. Certo. Quindi di fatto sono gli altri paesi che hanno già fatto l'Europa che noi ancora non abbiamo fatto. Quindi questo è un punto importante, che qui a casa casa non si rendono conto, qui in Europa dico, non si quindi gli italiani conto. Sono anche ambasciatori dell'Europa in questi sì, posti. Sì, sono ambasciatori e sono fra i più amati, devo dire la verità, perché non sono particolarmente simpatici i tedeschi piuttosto che i finlandesi o altri, insomma, gli olandesi. Noi siamo amati perché diciamo che sappiamo trattare con tutti, ci sappiamo adattare e sappiamo rispettare comunque le culture altrui. Ecco, questo è importante, soprattutto appunto questa immagine europea da persone che portano dei messaggi ma che cercano di costruire appunto delle realtà di pace. Nei Balcani è stata molto complessa. È stata complessissima, è stata credo la scuola più importante che molti di noi civili hanno avuto nell'ambito internazionale, dico, per dare ordine ai nuovi governi e alla creazione dei partiti politici, perché erano veramente molto duri, sono ancora molto duri, un paese... Meno di 20 anni fa eravamo proprio ai confini dell'Italia, in una situazione di guerra aperta, di confronto tra popoli, tra genti che fino a pochi anni prima vivevano insieme. Certo. Quindi una situazione anche imprevista. Imprevista e che ha fatto paura, e credo sia stata l'unica guerra che abbia fatto paura all'Italia e all'Europa, perché era una guerra bianca. Certo. È una guerra di bianchi e quindi di solito le guerre sono sempre lontane e si immagina lontane, anche se a pochi chilometri magari dall'altra sponda del Mediterraneo, come ancora oggi succede, ma non preoccupano molto. Le guerre preoccupano quando così vicino era una condizione, diciamo, di civiltà bianca. Certo, di realtà europea che contraddiceva lo stesso spirito dell'Europa, che è uno spirito di condivisione, di partecipazione, di apertura, invece lì c'era proprio un confronto tra vicini di casa. Esattamente. Ecco, in questa prospettiva adesso la situazione si è normalizzata, possiamo dirlo, lentamente questi paesi stanno, probabilmente entrerà la Croazia nella stessa Unione Europea nei prossimi mesi, quindi anche gli altri paesi stanno avviandosi su una comprensione reciproca, ancora situazioni come quella del Kosovo sono ancora aperte peraltro. Assolutamente, sono situazioni che dalla Slovenia alla Croazia sicuramente sono paesi che hanno migliorato e non voglio dire che hanno migliorato 10 volte più del nostro paese degli ultimi 40 anni, però è vero che è così. Anche perché sono rimasti sotto l'ala tedesca e quindi questa influenza, diciamo, germanica, oserei dire, austro-ungarica, germanica. Teutonica, bravo. Ecco, ha permesso, diciamo, di dar molta forza a questi paesi. Però è ancora, diciamo, una porta aperta dalla parte dei Balcani e potrebbe essere ancora molto problematica dal punto di vista del terrorismo internazionale. Ecco, la presenza italiana è ancora viva È per questo motivo che è ancora molto viva. E noi, i nostri uomini sono ancora presenti, i nostri soldati sono ancora presenti in entrambi i settori, sia a nord che a sud, sia in Kosovo che ancora qualcuno in Bosnia Erzegovina, perché è vero che c'è questa necessità, perché comunque le grandi centrali di interesse per il terrorismo internazionale, diciamo che sono lì dove c'è la porta dell'Adriatico. Ecco, il problema appunto quello che queste nazioni che stanno cercando di trovare un posto, magari cercano anche delle scorciatoie attraverso appunto la vendita di armi, il commercio di droga. Esatto, soprattutto il terrorismo internazionale, che non ha avuto crisi ovviamente come invece i paesi normali. Ecco, questo è un qualche cosa che è riuscito negativamente a globalizzarsi e quindi uno riesce ad avere i rapporti in quel settore negativo, no, di criminalità organizzata internazionale, di terrorismo internazionale, dal Marocco all'Indonesia senza passare con nessun certo, passaporto. Questo forse è un aspetto che viene guardano spesso, poco, ecco, viene visto poco, nel senso che si pensa solo ai problemi locali, a questi conflitti locali, ma poi sono anche terreni di cultura per dei traffici internazionali molto importanti. Assolutamente, dove lavorano in maniera assolutamente, non dico senza essere avvistati da noi, dalle nostre regole europee e internazionali, perché ci sono naturalmente i nostri che lavorano in tutti i settori, però penso che siano abbastanza ancora impreparati, ancora abbastanza ottusi a livello europeo. Questa è una cosa che invece deve preoccupare molto, perché questa parte della criminalità organizzata e del terrorismo cade e continua a ingrandirsi e a diventare una grande piaga proprio nei momenti di debolezza, e noi siamo in una grande debolezza perché pensiamo solo alla crisi economica. Certo, siamo in un momento di debolezza da cui potremo, speriamo di no, essere risvegliati da qualche evento, come purtroppo è avvenuto. Forse avere un po' più coscienza del passato ci potrebbe aiutare a guardare il futuro in maniera un po' diversa. Ecco, bisogna prevedere anche le cose, esatto, le cose negative. Certamente diversa l'esperienza nell'Iraq rispetto ai Balcani. Sì, sicuramente diversa, molto interessante anche quella, un paese estremamente preparato sotto il profilo amministrativo, incredibilmente importante dal punto di vista storico-culturale, con una grande storia, una grande tradizione. Ed io ho sempre detto, furono fatti due grandi errori. Un errore fu quello di sciogliere l'esercito iracheno. Io puntai veramente, anche battei i pugni sul tavolo insieme ai miei 18 colleghi, eravamo i 18 governatori, insieme all'ambasciatore Bremer e al generale Sanchez, famosissimo, con quarta stella, e dissi che non sarebbe stato giusto lasciare allo sbando tutti diciamo, i batisti e gli uomini di Saddam, perché avrebbero dato l'opportunità comunque, e questa era l'unica opportunità per tenere comunque in mano la situazione del dopo Saddam. E l'altro grande errore, io credo, sia stato far andare via noi civili, che eravamo di fatto l'amministrazione provvisoria, perché lasciare soli i militari non è mai una buona cosa, certo, soprattutto quando la guerra è finita, c'è bisogno dell'aiuto, della ricostruzione, tessuto, e noi lo stavamo facendo. Ecco, invece poi è stato preso in mano il potere dai militari, sì, stranieri peraltro. Esattamente. E questo esattamente ha creato una situazione che ancora, sì, adesso non è risolta. Com'è la situazione? Ma devo irachena? Dire la verità, la situazione irachena è sempre, con tutto il rispetto per il giornalismo, per i media internazionali e nazionali, è molto diversa da quella che uno sente tutti i giorni, perché l'Iraq non è il triangolo di Fallujah, Baghdad e Tikrit, non è quello. Il nord dell'Iraq, col Kurdistan iracheno, è un'esplosione di vitalità e di è un nuovo paese, è un nuovo paese. Anche perché hanno il petrolio, quindi assolutamente hanno ricchezze. E il sud, diciamo che è stato ben amministrato dagli inglesi. Io ero nella zona sud, nelle quattro province del sud, è stato ben amministrato e sta avendo un buono sviluppo. Quindi gli sviluppi, diciamo, del paese a livello di ricostruzione civile e anche amministrativo, è, diciamo che è uno sforzo grande di cui nessuno parla, perché le cose belle solitamente, certo, non fanno scoop. Purtroppo noi giornalisti siamo abituati a pensare che interessino più le cose negative che non le cose positive, ma forse anche questo programma è fatto per mettere in luce le esperienze difficili ma positive, sì, poi che raggiungono qualche obiettivo. Ecco, certo, in Iraq la sua esperienza è stata comunque quella di aver portato una, sì, capacità di dialogo, di comprensione, ma anche di aiuto a queste popolazioni. Assolutamente, siamo riusciti a dare allora tutto quello che era possibile in un paese veramente distrutto e che viveva sotto il terrore di Saddam. Questo è importante ricordarlo, perché uno può immaginare quello che era la verità, cioè che gli Stati Uniti siano andati, certo, per avere comunque un controllo geostrategico. E quello che dico sempre io, non è solamente questione di petrolio, gli americani non avevano una posizione in quell'area che fosse piuttosto forte, e hanno voluto creare un posizionamento importante a livello geostrategico. Forse hanno sbagliato, anche se fare i conti col passato è sempre difficile, hanno sbagliato la prima volta a fermarsi e non arrivare fino in fondo. Esattamente, quando... proprio per questo che gli iracheni credevano più negli europei che non... nei colleghi, sì, dicevano, sì, questa volta non lasciateci come l'altra volta. Certo, gli americani forse sono, diciamo, un po' più drastici nell'osservare le cose e anche nel praticare poi, sì, gli interventi. Sì, c'è una grande differenza fra America e Gran Bretagna e Regno Unito. L'America e gli Stati Uniti sono un paese moderno che comunque è abituato a stare a casa sua, hanno un grande senso naturalmente comunque del potere. Del potere, mentre gli inglesi, con cui ho sempre lavorato tutta la mia vita, hanno la capacità di capire cosa c'è da ricostruire senza distruggere tutto e riuscire a farlo bene. Quindi sono anche più realisti, in fondo, più concreti. Grazie, più Barbara Contini. Ci dobbiamo fermarci un attimo. Prego. Per le notizie sul traffico. Incontri. Ancora con Lucio Dalla, riprendiamo il nostro colloquio con Barbara Contini, che è qui con noi oggi. Barbara Contini ha una lunga esperienza nella cooperazione italiana, abbiamo parlato nella prima parte del suo impegno nei Balcani, del suo impegno in Iraq, ultimamente ha vissuto l'ultima legislatura che si è appena conclusa, senatrice del Senato della Repubblica, e adesso riprenderà il cammino internazionale perché non è stata rieletta, e questo capita appunto delle democrazie, ma se chiamiamola sempre senatrice Contini. Allora, abbiamo parlato molto di Balcani, di Iraq, lei ha una grande conoscenza anche dell'Asia in questa fase, un'Asia molto turbolenta che è un po' vista come una grande speranza dal punto di vista economico per i mercati in crescita, la Cina, certo, l'India, però è anche una realtà molto in transizione, con dei punti caldi come quelli della Corea del Nord, con dei punti di difficoltà in cui ogni tanto pensiamo al Myanmar, pensiamo ad altri paesi. Ecco, come vede questa realtà? Ecco, magari brevemente, anche se ho accennato a tanti problemi. Comunque, a tanti paesi, a tanti bei problemi. Ecco, qual è uno dei suoi ricordi, magari, di questi paesi, uno dei più interessanti? Ma sicuramente quello più interessante, che oggi credo stia andando di moda in queste settimane, è la Corea del Nord. Io sono stata in Corea del Nord l'anno scorso e ho visto e capito quanto questo nuovo è il figlio del nostro vecchio grande leader numero due, sia stato, diciamo, preso in giro dalla folla, dai media internazionali, dai popoli occidentali, e questo non fa molto bene alla salute, perché non si deve mai prendere in giro un asiatico, perché questo potrebbe causare molti danni, e quindi è un personaggio, un paese drammatico dove non esiste il valore del diritto umano, dove non esiste nulla che dia una speranza alla popolazione. Ecco, un paese apparentemente ordinato, dicono quanto li hanno visto, ma che nasconde poi al proprio interno molta povertà. È un paese allo stremo, cioè la popolazione allo stremo. In cui c'è una differenza colossale tra il nord e il sud. Assolutamente, assolutamente. Si vive con un fremito e con grande emozione il 38esimo parallelo, perché si vede la differenza della Corea del Sud e tutto quello che ha gli americani insieme ai coreani del sud, e da questa parte uomini che sono fisicamente e costituzionalmente la metà, perché non hanno avuto abbastanza aiuto a livello anche alimentare, proteine, non hanno nulla, e ovviamente è tutto in mano alla dittatura dei generali. E questi che ovviamente aizzano il giovane dittatore. Ecco, in questa prospettiva quello che è avvenuto in Germania forse era in parte simile a quello con una parte dell'est, una parte dell'ovest, che avevano sempre maggiori distanze. Sappiamo poi come è avvenuta una riunificazione, forse è quello che temono quelli del nord, che avvenga una riunificazione. Sì, loro temono questo, credo che abbiano messo in profondo imbarazzo la Cina, che è un gigante non solo economico, ma ovviamente, come sappiamo tutti, politico, e io lo dico da yamatologa, quindi da giapponese, è un paese che sarà messo profondamente in imbarazzo, perché dovrà scegliere con chi stare, e non se lo può permettere, perché ovviamente la Cina ha già scelto con chi stare, lo ha dimostrato in questi 10 anni, in questi 20 anni di grande cambiamento, e quindi è più che altro un fardello da nascondere la Corea del Nord. Quindi io sono molto imbarazzati, e questo non farà bene alla salute. salute, ma lo fanno apposta naturalmente per cercare di dare forza. Ecco, passiamo dall'Asia, un continente certamente complesso, all'Africa. L'Africa Ixunt Leones, si diceva una volta, sì. Ecco, anche se l'Africa ormai è una realtà estremamente composita, bisognerebbe parlare di le Afriche. Tra sì. l'altro lei parteciperà il mese prossimo a una serie, a un convegno, una settimana dell'Africa che si svolgerà a Varese, in cui appunto si parlerà molto di queste diversità dell'Africa, una diversità, possiamo fare qualche esempio, di paesi appunto che stanno crescendo e di paesi che sono ancora fermi. Qualche, sì. qualche elemento che viene dai suoi viaggi, dalle sue esperienze in Africa. Ma dunque, prima di fare il senatore della Repubblica, gli ultimi 3 anni prima di venire e rientrare in Italia, io sono stata in Darfur come inviato speciale del nostro governo italiano. Credo sia stata l'unica cosa che ho fatto per il nostro paese, cioè a livello con il mandato dal governo italiano, che è una delle zone più calde, più molto calde, che è il, sì. Sudan del sud dell'occidente occidentale, sì. E comunque c'erano anche ancora i problemi dopo la riappacificazione con il Sudan del sud, quindi diciamo il paese più importante dal punto di vista politico geografico di questi anni, perché intanto è grande, tanto per fare un'idea ai nostri ascoltatori e dare un'idea, a 2/3 delle Europa, quindi stiamo parlando, diciamo, nella zona dove ero io, di circa 2 Francie, ecco, e quindi è una zona importantissima. Poi dal punto di vista delle risorse, un paese pieno di gas, petrolio, pietre preziose, così come gli stati confinanti. Potrebbe essere un paese ricco. E sarebbe un paese ricchissimo se l'Occidente e la comunità internazionale avesse capito come reagire. Purtroppo vengono sempre inviati personaggi, inviati a livello internazionale, persone che conoscono poco i territori o che comunque non sono mai stati troppo tempo in Africa per capire quanto l'Africa ormai sia cambiata negli ultimi 20 anni, e come diceva giustamente prima lei, molti paesi sono cambiati, addirittura stanno diventando paesi progressivamente non più in via di sviluppo, ma è in trasformazione, veramente in trasformazione economica, politica. Pensiamo solamente che in Ruanda noi abbiamo, faccio un esempio tanto certo. per casa nostra, così almeno uno bisogna immaginare che ci sono il 50% di donne in Parlamento. Anche di più, cioè noi voglio dire siamo dietro anni luce al quindi Centro che hanno Africa. Fatto sicuramente passi in avanti. In una realtà che politica incredibile, ecco. No? Dove una volta c'erano i dittatori che noi ricordiamo, no? 30 anni fa, 20 anni fa, qualcuno ancora ce n'è, oggi ce n'è ancora, sì. qualcuno. Ecco, sono gli ultimi rimasti. Dopodiché l'Africa, bisogna dire una cosa, l'Africa nessuno l'ha mai presa sul serio per quello che potrà essere il grande potenziale e la grande opportunità per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, che c'è praticamente fiondata nel mezzo del Mediterraneo. Sì, nessuno è mai stato intelligente. Non ha avuto molta fortuna il rapporto d'Italia con l'Africa, pensiamo a quanto è avvenuto con la Libia, per esempio. Certo che ci siamo fatti scippare in maniera incredibile i rapporti politici internazionali con i francesi. Forse pensavano si stesse trattando con l'Algeria, non lo so. Ecco, infatti i francesi arrivano con l'Algeria sicuramente, ecco. anche dei conti. Ma questa sì. primavera araba che ha coinvolto la parte settentrionale dell'Africa, la certo. Tunisia soprattutto, sì. la Libia, l'Egitto, ecco. Una delle grandi diatribe e uno dei grandi scontri che io ho avuto a livello politico, uno dei 29 problemi con cui ho avuto con il nostro, diciamo, con la parte con cui ero all'inizio della legislatura, uno dei grandi motivi di assoluto disaccordo era questo. Io dissi la primavera araba, state attenti perché non sarà una primavera, potrà essere un lungo inverno, e lo dissi appena si mosse qualche cosa in Tunisia, lo dissi seriamente, perché dissi questa è una cosa da intanto da controllare, da monitorare, e poi da essere vicino a questa gente, perché altrimenti saranno presi assolutamente da tutto quello che di negativo c'è di fatto e che c'era, per chi come noi addetti ai lavori internazionali conoscono le situazioni di ogni paese e delle aree certo. geografiche. E invece l'Europa, l'Italia non ne parliamo, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso, ma l'Europa non ha preso seriamente in considerazione il controllo e il monitoraggio di questo, del settore, diciamo, hanno immaginato tutti veramente che ci fosse un cambiamento positivo. Quindi vuol dire che la gente non è preparata e non sa che cosa c'è dietro, vuol dire che non c'è l'informazione, la prevenzione di questi paesi e la conoscenza che viene portata, diciamo, al massimo livello dei nostri governi. Ecco, senza parlare della politica estera italiana, che meriterebbe un lungo discorso, abbiamo solo ancora un paio di minuti. Ma è semplicissimo, non c'è mai stata. Ecco, ma anche sul fronte della politica estera europea abbiamo qualche problema. Sì, questo è un grosso problema, ma è stato un conto è non esserci perché non sei capace, e un conto è non esserci perché non si è voluto. Sono due cose diverse. La politica europea, estera europea, non si è voluta fare, e si voleva qualcuno abbastanza, con tutto il rispetto per la baronessa Stetson, assolutamente, ma sicuramente è stata messa appositamente per avere un ruolo debole quando ci sono nazioni forti che non desiderano avere un grande uomo. Quindi praticamente Francia e Gran Bretagna vogliono fare la loro politica estera e continuare a fare la loro politica estera. Assolutamente, assolutamente. La grande Europa ci sarà quando ci sarà una grande Europa politica. E Barbara Contini cosa farà da grande? Io mi auguro di fare tutto quello che ho fatto fino ai quasi 50 anni, cioè prima di essere senatore, perché sono una persona estremamente felice e contenta di tutto quello che ho fatto prima, e mi auguro, se del caso, di poter aiutare il mio paese così come l'ho fatto per altri paesi. Ecco, ma quale paese, magari appunto un paese in cui c'è da costruire, non dove non ci siano le guerre che ha dovuto anche, con cui ha dovuto confrontarsi, sì. quale paese vorrebbe magari tornare e, non dico vivere, ma passare un altro periodo di tempo? Qual è il paese che era più devo essere sincera che mi affascina di più in questo momento? Potrebbero essere due: o rientrare e tornare in Afghanistan, o tornare in Somalia, perché noi... Cioè, le piacciono le cose difficili, insomma. Beh, sono una ragazza un po' così. La cosa migliore potrei dire vorrei stare in Italia, certo. Perché è peggiore di qui. Sì, in Italia c'è qualche problema, insomma, sì. Beh, però insomma, Afghanistan e Somalia sono forse due punti sicuramente caldi, speriamo che possano essere anche questa sua scelta una possibilità di vedere qualche speranza di... Sì. Una, soprattutto per quei popoli, per quei paesi. E per ridare anche onore all'Italia, soprattutto nel Corno d'Africa. Grazie mille, l'Italia appunto ha dei debiti del passato, enormi, ma anche delle grandi opportunità. Dei crediti e le grandi opportunità. Grazie mille a Barbara Contini di essere stata con noi questa domenica pomeriggio. Ringrazio anche Laura Faggin in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che questo programma, tutte le puntate di questo programma, così come tutti i programmi di Radio 24, possono essere ascoltati dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.